scendere giù a valle come un fiume mi coloro e poi bussare piano a quella porta e pensare a chi mi aspetta, ci riuscirò e sarò io, non farò nulla di prezioso per esistere. Una voce stridula che suona male, un po' stonata, pensare di non aver scelto, voglio tornare a casa se riuscirò, volerò via, non farò nulla di prezioso per esistere. È tardi ormai per cominciare a piangere, mio Dio com'è difficile cantare, pensavo la vita fosse la mia complice e invece mi rimproverà di essere così. Abbracciami, ti prego, non ti spogliare, almeno tu che volevi un quadro mio. Muro delle mie brame, ti prego, crollami addosso. Tu almeno sei bianco, così io vedevo il mondo mio. Abbracciami, amore mio, anche se io non so chi sei, il rosso è passione, lo so, abbracciami ancora un po', perché questa notte è infinita, ti amo, e forse c'è più nulla di prezioso per cui vivere, le mie certezze solo quattro mura, due braccia inesistenti, solo la paura, le braccia di chi come me non ha ceduto. A chi voleva tutto me e la mia anima, di questo letto io non so che farmene, se dentro non c'è un sogno da dividere, con chi crede ancora che esistano le favole. Cuore mio va via, salvati, salvati e racconta di me, che ho creduto in te e volevo tu fossi felice cantandoti e poi svegliarmi un giorno e raccontarti di lei che ti ha preso con sé per rendere felici.